vengono. Ma anche i contadini, gli agricoltori, voglio dire, va contro i loro interessi, no? Non potrebbero formare anche loro un comitato, un fronte per dire di no davanti a queste opere che vanno a smantellare tutto quello che è il loro lavoro, tutto quello che poi alla fine dà da mangiare a tutti, no? Oltre che far guadagnare loro, che sono gli agricoltori che lavorano la terra, eccetera. Non si stanno mobilitando in questo senso. Ma qualcuno che si mobilita, No, in c'è. realtà, cioè, su questo territorio qua c'è stata una buona mobilitazione che ha appunto prodotto anche progettualità, connessioni, e ancora oggi è così. Il problema che rientra poi nel discorso generale di prima, anche se un po', è poco appassionante, però di fatto è così, nel senso che comunque siamo in Italia, ci sono delle logiche di potere, delle logiche concertative che vanno anche oltre, nel senso che comunque l'agricoltura in Italia e nel mondo si è sviluppata e si sviluppa e comunque va in una direzione che non è sicuramente quella dell'agricoltura contadina, ma l'agricoltura è stata un'agricoltura agroindustriale, un'agricoltura dopata dai finanziamenti, cioè nel senso comunque anche in questo territorio gli agricoltori hanno campato di finanziamenti, non è che campavano perché producevano un bene primario, lo vendevano, la gente mangiava quelle cose, ma coltivavano, non raccoglievano, comunque raccoglievano in minima parte andava a sostentare l'azienda, ma poi il grosso ricavo veniva fatto dai finanziamenti della Comunità Europea, le politiche agricole comunitarie, quindi la PAC. Cioè, si è dopata un'agricoltura di un certo tipo, che era l'agricoltura agroindustriale. Cioè, tutta quell'agricoltura virtuosa è nata perché è nata sul territorio per volontà di alcuni agricoltori virtuosi che hanno deciso di mettersi in gioco perché volevano un'agricoltura di un certo tipo, insieme alle persone che poi attraversano i territori. E qua, in questo territorio, abbiamo delle specificità molto avanzate, cioè forse abbiamo delle esperienze tra le migliori a livello nazionale, nel senso che comunque ci sono veramente delle aziende agricole molto virtuose. Il problema, qual è il problema? Il problema è che sono in questo momento, ad esempio, c'è un discorso rispetto all'Expo che sta sussumendo quel tipo di esperienza, purtroppo, perché comunque perché loro sono forti e perché noi siamo deboli, però di fatto una cosa abbastanza che noi viviamo con sofferenza, perché comunque siamo protagonisti di un'esperienza importante con gli agricoltori. E così però c'hai di fronte una macchina che si chiama Expo 2015 e ti trovi poi a concertare con i sindacati agricoli, quindi anche questa vicenda di fatto, il pericolo che noi stiamo continuando a ribadire è il fatto che comunque se all'interno del movimento le referenze sono i sindacati, è un problema perché sono gli stessi sindacati che comunque non sono riusciti a disinnescare il meccanismo dei finanziamenti, il meccanismo delle politiche agricole comunitarie, sono gli stessi che firmano contratti con Expo. Quindi cioè, c'è una contraddizione forte. Se invece i movimenti vengono attraversati dalle realtà agricole in quanto aziende, esperienze singole che si connettono con i cittadini, con i movimenti, con altri agricoltori, allora lì nasce qualcosa di positivo. E di fatto è stato così, no? Cioè, e questa è un po' la storia positiva che succede nei territori, nel momento in cui invece ci sono queste strutture che hanno un nome, che è Coldiretti, Confagricoltori. La stessa Confederazione Italiana Agricola, che è la CIA, che comunque è quella più, diciamo così, è sempre stata a sinistra, è nata con una storia bracciantile, in questo momento comunque firma dei contratti con Expo 2015. Quindi sono comunque strutture di un certo tipo che è difficile poi condurre delle battaglie di sistema. Conduci delle battaglie molto come si dice, di lobby. E di struttura, no? Quindi come, cioè, per quello che è la nostra storia, cioè, non abbiamo difficoltà, è un po' come quando parli della CGIL o della CISL o della UIL, quando vai poi a a parlare di lavoro, cioè quando vai a parlare di tutta una serie di leggi che poi hanno portato il sistema dei diritti del lavoratore, il precariato, tutta questa cosa qua, quindi un po' simile poi quando vai a parlare di territorio. E quindi cioè, sembra di parlare di massimi sistemi, ma di fatto la narrazione è questa qua, cioè nel momento in cui si scardina quel tipo di roba lì, ci sono le situazioni positive. È vero che è la cosa positiva, che comunque è l'unica roba che c'è, cioè, è quando attraversi quel tipo di situazione, personalmente, anche come folletto, come terratrema, come movimenti, lì vedi qualcosa che è vivo e che ti sembra di attraversare qualcosa che si muove parallelamente, se non in opposizione a quel tipo di roba lì. Però è dura, siamo in un paese appunto dove l'esperienza, una delle esperienze più avanzate, poi magari Domenico ce la può raccontare perché poi è interessante, noi l'abbiamo fatto anche qua un incontro quando c'erano i ragazzi della valle, le persone che hanno attraversato, che porca puttana, cioè proprio 2 mesi dopo che erano qua a raccontarci quanto era bella la Val Susa e cosa voleva dire. Cioè, quelle persone adesso sono o in galera o agli arresti domiciliari. Nel momento in cui tu comunque veramente costruisci un'opposizione vera, un modello che pone lo scontro in un certo modo, cioè comunque la repressione e lo Stato arriva, e arriva in un paese, in un momento storico che comunque, cioè questo è purtroppo il dato di fatto, perché comunque è stato così, cioè qua quando abbiamo fatto quell'incontro e tutti noi, chi è stato in Val Susa sa che quando parli di quella roba lì parli di un territorio che veramente si era appropriato della propria storia, ma si era appropriato dicendo no a un'infrastruttura, ma anche costruendo dei rapporti tra le persone che vivono in un territorio, e costruisci un modello, una quotidianità che suppone a quello che è. Però poi dopo lì ci sono i conti con la repressione, cioè questa è una storia antica che l'Italia ha agita bene e se fai un'analisi storica è così e ancora adesso cioè, di quei processi, di quella storia ti viene raccontata come e allora diventi terrorista, cioè diventi pericoloso e questo è un po' purtroppo un'altra declinazione su cui non si fa i conti, ma è così, io ci tengo a raccontarla perché cioè, l'abbiamo toccata con mano, l'abbiamo vista proprio, quindi non è semplice. Poi adesso non voglio essere troppo drammatico, però è giusto.